l'opinione pubblica, le persone si fermano al tavolo con molta facilità. Ovviamente l'importante è raggiungere attraverso i mezzi di informazione i cittadini che sono interessati a questa tematica e poi in seguito convincerli a votare una volta raggiunte le 500.000 firme e a raggiungere il quorum per il referendum. Il referendum che modifiche farebbe? Il quesito referendario è volto ad abrogare alcune disposizioni dell'articolo 579 del codice penale che punisce ad oggi l'eutanasia. Pertanto, oggi un medico che vuole praticare l'eutanasia, vuole porre fine ai dolori di un malato consenziente, rischia dai 6 ai 15 anni. Con l'intervento referendario vogliamo abrogare queste disposizioni che puniscono appunto in questi casi, solo in questi casi, l'omicidio del consenziente. In altri paesi europei, la Spagna la settimana scorsa è già, insomma, questo è già avvenuto. Certo, e questa è una questione molto drammatica perché, ad esempio, vediamo molto spesso il caso della Svizzera, che è l'unico paese in Europa ad accettare, diciamo, il suicidio assistito, per esempio, per i non residenti. Il problema è chiaramente l'ipocrisia, perché ad oggi, la Corte Costituzionale permette, diciamo, a chi vuole accedere a questo servizio di poterlo fare con le scriminanti, con alcune scriminanti e, diciamo, fomenta il cosiddetto turismo dei diritti. Su questo tema, in Parlamento, se non sbaglio, ci sono 5 proposte di legge, tra cui una vostra depositata nel 2013. Oggi alla conferenza stampa ci saranno anche forze rappresentate in Parlamento. Perché il Parlamento dorme? La nostra proposta di legge del 2013 ha raggiunto 130.000 firme e non è stata mai discussa dal Parlamento. In Parlamento, a scadenza direi quasi semestrale, c'è un'iniziativa parlamentare, diciamo, volta a introdurre in generale non solo l'eutanasia, ma tematiche che riguardano il fine vita. Io credo che in questi temi, diciamo, l'opinione pubblica, i cittadini, anche perché questi temi li sentono, siano più avanti rispetto ai partiti, rispetto ai parlamentari che sono legati, diciamo, a dinamiche completamente diverse. Sarà possibile firmare in ogni comune d'Italia, in generale negli URP, a partire dal 1 luglio, e poi avremo dei tavoli in tutta Italia. A Bologna saremo tutti i giorni in via Rizzoli dalle 15 alle 20 e nel fine settimana anche ai Giardini Margherita in piazza di Porta Castiglione. In alcune città siamo partiti il 20 giugno, a Bologna siamo partiti il 26-27 giugno. Anche perché abbiamo avuto un anticipo da parte delle Camere, quindi per metterci in ordine dal punto di vista organizzativo saremo ovunque il 1 luglio. Secondo voi ci sono le condizioni adesso, anche c'è l'ambiente adatto, anche il governo, insomma, la disponibilità per poter farla una volta raggiunto il referendum? Credo proprio di sì. L'obiettivo delle 500.000 firme, se continuiamo così, è un obiettivo raggiungibile. Speriamo appunto che da parte del Parlamento, da parte del governo, non ci sia, diciamo, il solito ostracismo che c'è nei confronti del referendum, della democrazia diretta. Recentemente abbiamo visto l'intervento del Vaticano sul DDL Zan. Temete che ci possa essere un'ingerenza anche su questo tema che è molto sensibile? Ma credo che qui ci sia una differenza tra democrazia rappresentativa e alla fine la democrazia referendaria. Magari il DDL Zan può avere la CEI, anche può avere una certa influenza sui parlamentari, ma non può impedire ai cittadini di recarsi ai tavoli e firmare, o diciamo ha sicuramente meno potere persuasivo rispetto a quello che aveva un tempo nei confronti dell'elettorato cattolico da un lato e nei confronti dei partiti.